Tonight we shall continue with our series of Dhamma talks on Satipatthana, and as you might remember from the last Dhamma talk on Friday, we dealt with the mindful contemplation of the mind, Cittanupassana Satipatthana, and today will be Cittanupassana Satipatthana part 2, with an emphasis on dosa and metta. Allora, continuiamo i nostri discorsi sulla meditazione di Satipatthana. Come vi ricorderete, venerdì abbiamo parlato della contemplazione della mente, quindi Cittanupassana Satipatthana, e oggi continueremo con Cittanupassana Satipatthana parte seconda, con una particolare enfasi su dosa, cioè la rabbia, e metta, la benevolenza. Now, the main instruction for meditators who practice this form of Satipatthana meditation is to be mindful of, to be aware of the most predominant objects as they are occurring in the body or in the mind, and no matter what the object may be, whether desirable or undesirable. L'istruzione principale di questa meditazione di Satipatthana è quella di essere consapevole di qualunque oggetto sorga, che sia nel corpo o nella mente, che sia piacevole o desiderabile o non desiderabile. And so those four establishments of mindfulness are basically about the application of mindfulness to four different categories of objects. Allora, i quattro fondamenti della consapevolezza rappresentano questa consapevolezza in quattro aree di attenzione. Categoria. Quattro categorie. Categories of objects. Allora, si riferiscono a quattro categorie di oggetti da osservare. And the first such category of objects consists of bodily objects, hence we have the contemplation, mindful contemplation of bodily objects. Quindi la prima categoria di questi oggetti riguarda riguarda il corpo. Quindi abbiamo gli oggetti corporei o fisici. So this covers the mindful observation of the rising, falling, and falling movement of the abdomen, of pains and aches, tension, heat, cold, and so on. E allora questo riguarda la contemplazione consapevole dell'alzarsi e abbassarsi dell'addome, dei dolori che sorgono, del calore, dei quattro elementi e così via. And then as the second category of objects of observation we have feelings. And this then covers pleasant feelings, unpleasant feelings, and neither unpleasant nor pleasant feelings. La seconda categoria di oggetti copre invece le sensazioni, e queste si dividono in sensazioni piacevoli, sensazioni spiacevoli, e sensazioni che non sono né piacevoli né spiacevoli. And then as the third category of objects of observation to be observed mindfully, well, we have the mind and mental objects. E la terza categoria di oggetti da osservare o da contemplare consapevolmente riguarda la mente e gli oggetti mentali. And as we've discussed last time, be mindful of a mind that is associated with lust, and so to know it as such, and when the mind is free of lust, then to be aware of this and to know this. E quindi abbiamo, come abbiamo già detto, essere consapevoli di una mente che ha in sé della brama, così come di una mente che invece è priva di brama o di desiderio. And then and to be mindful of and to know when the mind is associated with aversion, and also to be mindful and to know when the mind is free of aversion. e inoltre essere consapevoli e conoscere la mente quando è associata con l'avversione, così come essere consapevoli e conoscere una mente che invece è priva di avversione. And the same thing goes for a mind that is associated with delusion. So when such a mind is present, then we are aware of it, we know it as it is. La stessa cosa per una mente invece in cui c'è dell'illusione, quindi noi ne siamo consapevoli e la conosciamo così per com'è. And when the mind is free of delusion, then again we have to be mindful of this and know this. E quando una mente è libera dall'illusione, anche in questo caso dobbiamo esserne consapevoli e conoscerlo. And then, as the last category, we have the mindful contemplation of dhammas, and under this comes the mindful contemplation of the five hindrances, and then of the five aggregates, and the six sense spheres, and so on. So groups of teachings. Come ultima categoria abbiamo la contemplazione consapevole dei dhammas, e questi comprendono i cinque ostacoli, i cinque aggregati, le sei basi dei sensi e così via. Quindi sono dei gruppi di insegnamenti. Now, in the Satipatthana meditation, we are not introducing any concepts into the meditation practice, but rather we observe what truly is happening in the body or in the mind. Quindi nella meditazione di Satipatthana noi non stiamo introducendo dei concetti, ma piuttosto noi stiamo osservando quello che effettivamente accade nel corpo e nella mente. Now, today we'll deal with ill will first. And how does this ill will manifest? In which forms does it manifest? In which forms do we experience it? Allora, questa sera parleremo della malevolenza. In quali forme si manifesta e in che modo noi lo esperiamo, lo proviamo. So, this may cover mental states or mental states, conditions such as getting, being upset, and then also opposition, repeated opposition, rudeness. Allora, questo potrebbe comprendere questi stati mentali come, per esempio, l'essere agitati o arrabbiati per qualcosa, o l'opposizione, opporsi a qualcosa, o essere scortesi. Possiamo anche farne esperienza come se fosse qualcosa di spiacevole. Or we might experience it as malice. O come malizia. Or cruelty. O crudeltà. Or irritation, annoyance. Irritazione, fastidio. And then frustration. Frustrazione. Resentment. Risentimento. Prejudice. Pregiudizio. And intolerance. Intolleranza, impatience, impazienza, sometimes even getting furious, a volte anche il diventare furiosi, enraged, o arrabbiatissimi proprio. And at other times nothing happens. E in altri casi invece non succede nulla. Namely, nothing is being said for one day, two days. In altre parole, non si dice una parola, c'è il silenzio per un giorno o due giorni. So this then is what? Absolute peace? E questo cos'è? Una pace assoluta? Passive aggression. This is a form of passive aggression. Yes. Yeah, this is called giving someone the silent treatment. E quindi qualcuno suggeriva è una forma di aggressività silenziosa. Banto aggiunge sì, è il dare a qualcuno il trattamento silenzioso. Now, in order to know other other forms of this ill will, all we need to do is watch TV. Per conoscere altre forme di questa malevolenza, tutto ciò che dobbiamo fare è guardare la televisione. And there, we'll see quite often when people get angry, they treat them each other very nicely by throwing plates at each other. E lì vedremo che quando le persone si arrabbiano uno con l'altra, allora si trattano molto bene, cioè si tirano i piatti addosso. And sometimes it doesn't end there. Apparently, they also, throw pieces of furniture at each other. A volte non finisce lì, e addirittura si tirano dei mobili addosso. No, this is rather saddening if one then considers that these kind of deeds sometimes happen even among loved ones, among people who are supposed to be very close to one another, who under normal circumstances love each other. E questa è una cosa abbastanza triste, considerando il fatto che a volte ciò accade anche tra persone che si dovrebbero volere bene, persone care, persone che in altre circostanze si amano. Now, this mental state of ill will, known in the Pali language as dosa, may lead to even worse. Allora, questo stato mentale della malevolenza, che in Pali si chiama dosa, potrebbe portare a delle conseguenze ancora peggiori. It may lead a person out of anger to smash a door. Allora, potrebbe portare una persona, per esempio, in preda alla rabbia, a sbattere una porta o rompere una porta. Or it may lead a person to yell at some other person. O a urlare ad un'altra persona. Or it may even get physically involved with the other person. O addirittura avere uno scontro fisico con un'altra persona. In the worst case, one might even take the life of another person. Nei casi peggiori, uno potrebbe anche prendere la vita, cioè uccidere l'altra persona. And so, then when anger is present, let's say, between two communities or two nations, then it may lead to even a war. E quando questa rabbia è presente tra due comunità o tra due nazioni, potrebbe anche portare a una guerra. And so, in this case, of course, the death toll might be much higher. E in questo caso, ovviamente, il prezzo in termini di morti potrebbe essere ancora più alto. And so from this we can see that the consequences of ill will can be quite destructive. Da questo possiamo vedere che le conseguenze della malevolenza possono essere piuttosto distruttive. And so, even though this ill will and with all the consequences that it might lead to is so destructive, or even though it is considered publicly as a great fault, yet people still take recourse to it over and over again. E anche se questa malevolenza è considerata così pubblicamente, cioè da tutti, come un grande difetto, ciò nonostante vi si fa ricorso ripetutamente. And so, even though it is publicly seen as a great fault, yet most people do not actively pursue measures that lead to peace. E nonostante sia riconosciuto appunto come un grande difetto, però le persone non prendono delle contromisure o non prendono dei provvedimenti per arrivare invece a uno stato di pace, o che possa portare alla pace. And as Venerable Nyanaponika has expressed in his book, The Three Roots of All Unwholesomeness, politicians tend to, or it seems easier for politicians and others to rally people around a common hatred of some other group rather than to rally people around some positive cause. Allora, così come ha detto, ha scritto Nyanaponika nel suo libro sulle tre radici delle azioni malsane, è più facile per dei politici radunare le masse intorno a un sentimento comune di odio verso un'altra comunità, piuttosto che attirare appunto le persone intorno a un argomento, diciamo una questione di pace. And so, this certainly ill will, when it then gets expressed physically, verbally, or mentally, then it is then it can be very destructive to the person who hates, and also to the person who the victim of this hate. Allora, questa malevolenza, quando poi è messa in atto a livello fisico, verbale o di pensiero, può essere molto distruttivo sia per la persona che odia che per la persona che è vittima di questo odio. And so, when we think of bodily reactions, just for the person who exercises expresses the ill will, and let's say all of a sudden gets into an outburst of anger, into a rage, well, such a person might notice that the heart starts pounding, and then the body muscles contract, and the body might be sweating a lot, and the face turns red, and some people even end with a heart attack. Allora, pensiamo per un attimo agli effetti fisici che ha su una persona uno scoppio d'ira. Allora, può essere che il cuore comincia a battere più forte, c'è una tensione muscolare, c'è una forte sudorazione, il volto diventa paonazzo, e in alcuni casi potrebbero anche esserci degli attacchi di cuore. Now, if these outbursts of rage happen frequently, then they may have a real detrimental effect upon one's own health. E se questi scoppi di ira accadono ripetutamente, allora possono avere un effetto serio sulla salute di una persona. And as for the impact on the mind, this too should not be underestimated. Per quanto riguarda l'impatto sulla mente, anche questo non va sottovalutato. And if one keeps expressing one's anger or irritation freely, then it becomes kind of a habit. And then whenever some annoying cause is there, then the mind will fall into this pattern. Se uno continua a esprimere rabbia o irritazione, allora diventa una sorta di abitudine, e ogni volta che sorge una causa irritante, diciamo, un oggetto irritante, allora la mente reagirà, e questo non farà altro che consolidare questa struttura. And the Buddhist texts are saying that the function of ill will is to burn up the own support, its own support, namely that of the mind and of the body. E negli insegnamenti del Buddha si dice che la rabbia ha questa funzione di bruciare il proprio sostegno, cioè ciò che lo tiene in piedi praticamente, che sarebbe il corpo e la mente. And so, when anger or ill will arises in one's own stream of consciousness, then it leads to a burning of one's own mind. And some experience this as even like a raging fire. Quindi quando sorge questa malevolenza, questa rabbia nel flusso della propria coscienza, allora si ha una sorta di fuoco, un bruciore. Alcuni lo esprimono proprio come avere un fuoco dentro, una cosa che brucia la propria mente. And so, you know, when ill will has arisen, you know, in the night, and it takes on a certain or a strong momentum, and then it will definitely lead to a pollution of the mind. E quando questa malevolenza sorge nella mente e diventa sempre più forte, allora acquista un certo potere ed è come un inquinante della mente, comincia ad inquinare la mente. And at that point the mind surely is not pure, and at that point surely happiness will not be there, and surely loving kindness will also not be there. Allora sicuramente la mente a quel punto non sarà pura, e sicuramente non ci sarà pace, non ci sarà la felicità, e non ci sarà neanche la benevolenza. I put peace in there too. Yeah, that's all right. That's all right, I think. Okay. La pace non l'ha detto, ma non as long as they're not taking over the Dhamma talk. Which I wouldn't mind either. Absolutely. Perché io non mi prenda poi la mano e vado avanti io con il Dhamma. Da quale cosa non mi dispiacerebbe? No, perché di solito tolgo le parole, stavolta ne ho aggiunto una. I usually forget words, this time I added one. That's all right. You're pretty precise in your translation. So, anyways, now, these are some of the things, some of the aspects of the impact on the person who expresses the anger, and then as for the victim of the anger, well, for sure he or she will not feel flattered, but may feel emotionally very much hurt. Allora, questi erano gli effetti che ha la malevolenza sulla persona che la esprime. Per quanto riguarda invece la vittima di questa malevolenza, beh, sicuramente non si sentirà elogiata, anzi piuttosto avrà un sentimento, cioè si sentirà ferita da questo attacco di ira. And so, one may feel hurt, one may feel sad about an attack, and then fear might arise in the victim, and then if one happens to be the victim of ill will over a longer period of time, then this may even change the structure of the mind. Allora la persona sicuramente sarà triste, si sentirà ferita, potrebbe anche esserci della paura, e se questi attacchi di malevolenza nei suoi confronti si ripetono nel tempo, allora anche questo può avere un impatto sulla mente. And from a psychological point of view, if children have been mistreated a lot, and then this will have consequences later on. E da un punto di vista psicologico, se dei bambini sono stati trattati male per un periodo piuttosto lungo di tempo, questo avrà delle conseguenze nel loro futuro. Okay. So either it will psychologically weaken them, or it might lead them to become aggressive themselves with others. Quindi o li indebolirà psicologicamente, oppure li porterà a essere aggressivi loro stessi verso gli altri. So, the aggression received then in one way or another will be passed on to others. So there's no it's like a vicious cycle. Quindi l'aggressione ricevuta in qualche modo sarà poi passata ad altre persone. Quindi è come una sorta di circolo vizioso. No, life is already full of suffering, and why should we add to it? La vita è già piena di sofferenza, perché dobbiamo aggiungerne altra? Now, when it comes to conflict, and the ill will may contribute to conflict, and then there are all sorts of types of conflicts, things that or ways that conflicts manifest. Allora, quando si tratta di conflitti, e spesso sono causati da questa malevolenza, ci sono diversi modi in cui si manifestano. And so, as explained during some other Dhamma talk, it could be a simple thing like a style conflict, so we get angry about the way another person cuts the bread or slices the cheese or cuts up the tomatoes, etc. Allora, come abbiamo già detto precedentemente, potrebbero essere dei conflitti su delle piccole cose, dei conflitti di stile. Per esempio, può non andare a genio come una persona affetta il pane, o come taglia il formaggio, o come taglia i pomodori, per esempio. Or, there are these conflicts. If one is angry with another person, then one might not express the anger directly towards that person, but one might express the anger towards, let's say, the pet of that person. Allora, poi c'è un altro tipo di conflitto, insomma, di rabbia, un altro modo di esprimere la rabbia. Uno arrabbiato con una persona potrebbe non esprimere direttamente la rabbia a quella persona, ma per esempio sull'animale preferito di quella persona. Or if you have parents, then one parent may have one preferred child, and so if you're angry with your spouse, then you might not express your anger directly towards your spouse, but treat the preferred child improper way. Oppure all'interno di una famiglia un coniuge può avercela con l'altro, può esprimere rabbia nei confronti dell'altro coniuge, ma anziché esprimerla direttamente potrebbe indirizzarla verso il figlio preferito di quel particolare, di quel coniuge, insomma, del marito, della moglie. And so, when the mental state of hatred has arisen in the mind, then basically anything will do as a cause to ignite the hatred, to cause it manifest either physically or verbally. Quando è presente l'odio nella mente, allora qualsiasi cosa può servire per dar fuoco, far scatenare questa rabbia e esprimerla sia fisicamente che verbalmente, physically or verbally. Or verbally, right. And even if the first cause or thing that comes along is not sufficient to really blow up, well, then it's maybe the second cause. And if not the second cause, then at least by the time some third event comes up, then the explosion is there. E quindi se non è la prima cosa a causare questa, a scatenare questa ira, potrebbe essere la seconda, se non è la seconda sicuramente sarà la terza a far scattare questo, come dire, questo scoppio di ira. No, we can say, just from an illustrative point of view, a mind in which anger has arisen manifesting is like an erupting volcano. Allora possiamo dire che la mente nella quale è sorta la rabbia può essere paragonata a un vulcano in eruzione. And Monte Vesuvio, and maybe even worse. Come il Vesuvio, forse ancora peggio. Now, a modern illustration would be a mind in which ill will has arisen is like a time bomb. Oppure un altro esempio può essere un altro paragone. È quello della mente nella quale è sorta la malevolenza, è come una bomba a orologeria. So anytime it can go off. In qualsiasi istante può scoppiare. Now, when When it comes to the different mental states that can arise in the stream of consciousness of certain human beings, the Buddha distinguishes between those which are part of a healthy state of mind, and which are morally faultless and have pleasant results, or lead to pleasant results. Allora, quando si tratta degli stati mentali che sorgono nel flusso della coscienza, allora il Buddha distingue e li mette in due categorie. Allora, ci sono quelli che quegli stati mentali che sono favorevoli, che portano alla healthy state of mind, agli stati mentali salutari, then which are morally che sono impeccabili dal punto di vista morale, and lead to pleasant results, e portano a dei risultati piacevoli. On the other hand, we have mental states that contribute to an unhealthy state of mind. Poi abbiamo gli stati mentali che contribuiscono a stati mentali non salutari. And then they are morally faulty. E sono moralmente difettosi, si può dire. And lead to undesirable results. E portano a risultati non desiderabili. So, the first group of mental states are known as wholesome or skillful mental states, whereas the second group of mental states is known as unwholesome or unskillful mental states. Allora, il primo gruppo di stati mentali è sono chiamati stati mentali non salutari oppure non abili, cioè non abili. Il secondo gruppo invece sono quelli non il primo gruppo sono quelli salutari e abili, il secondo gruppo quelli non salutari e non abili. Skillful is not exactly abili, positive or negative. Sì, possiamo dire positivi e negativi più che abili e non abili. Now comes the big question to you. The mental state of ill will falls into which category? Does it fall into the first category? Allora, adesso viene la domanda per voi. Allora, la malevolenza rientra nella prima categoria, cioè quelli positivi e salutari? As usual, one of those over simple questions. Questa è una domanda super semplice. So, am I right? Allora, rientra in questa prima categoria. So, ill will is an wholesome mental state? Yes, we need to engage in it. It leads to, it is associated with a healthy mental state. Sì, noi dobbiamo intraprendere questa malevolenza perché porta a stati mentali salutari. Well, obviously, no. No. Okay. Ovviamente no. So, now, after these preliminary excursion into the different ways ill will or different forms ill will manifests, and then its certain consequences and some of its certain causes. Now let us take a look at the definition, the classical definition of ill will as given by the commentators. Allora, dopo aver fatto questa analisi sulle manifestazioni della malevolenza, sulle conseguenze della malevolenza e sulle cause, adesso andiamo a vedere una definizione di questa malevolenza così come viene data nei commentari. So, this ill will is said to have the characteristic of ferocity or of savageness, and it is being compared to a provoked snake that is ready to bite. Allora, questa malevolenza ha la caratteristica della ferocia o dell'essere selvaggio ed è paragonato ad un serpente che è pronto a mordere. And there are two functions being attributed to this ill will. The first one is certain to spread, and the illustration given here is to spread like a drop of poison that eats the substance it falls onto. Allora, sono date due funzioni della malevolenza. La prima è quella di espandersi, e l'esempio dato è come di una goccia di veleno che divora o consuma tutto ciò su cui cade. And so, you know, this point is actually very true, especially when we think of it in terms of modern conflict resolution. E questo punto è molto vero, soprattutto se, se pensiamo in termini di risoluzione dei conflitti, in termini moderni di risoluzione dei conflitti. So once an issue has arisen, let's say some ill will, and it is accompanied by ill will, an issue has arisen among two conflicting parties, then usually it will not stop right there, but usually instead it will expand. So from a tiny negligible issue, it might turn into a really big and totally inflated thing. Allora, questo si può vedere quando, per esempio, sorge un problema tra due parti in conflitto. Allora, si vede chiaramente come da una causa scatenante, magari irrilevante o piccola, la questione, il problema si espande e si inflaziona, e si gonfia a dismisura. And so, even in the mind itself, this spreading takes place. And so if ill will arises, or if just a little bit of ill will arises at first, then it covers mainly only a little part of the mind. But if the ill will goes unchecked, in no time will it spread all of one's mind, and one will be thinking day and night only of this contentious issue. E lo stesso accade nella nostra mente. Quando c'è anche solo un po' di malevolenza nella mente, magari comincia e prende solo una piccola parte della mente, però se va avanti non controllata, allora ha questa funzione di espandersi e comincia ad occupare poi tutta la mente, e quindi uno è in preda a questi pensieri ossessivi rispetto alla questione che è carica di malevolenza. And so, the second function of this particular mental state is to burn its own support, and as expanded, certainly burns the mind in which it arises, and the body. And it is being illustrated by a raging forest fire that burns up its own support. E quindi la seconda funzione della malevolenza è quella di bruciare, una cosa che brucia il proprio sostegno. E la stessa cosa accade nella mente, che in qualche modo attraverso la malevolenza prende fuoco, e l'esempio che viene dato è quello di un incendio che si scatena in una foresta. So if previously some amount of positive mental states were present in the mind towards another person, but then the conflict arises, and with this all the wholesomeness gets burned away. E quindi se c'è anche un po' di benevolenza o qualche stato salutare, stato mentale salutare, per esempio verso un'altra persona, quando sorge la malevolenza, allora questa ha la capacità di bruciare e quindi eliminare anche quei pochi stati mentali positivi che ci sono. Now, this mental state of ill will is manifested as persecuting, like an enemy who's got his chance to go after another person, his or her opponent. Allora, la manifestazione della malevolenza è quella dell'essere persecutoria, è come un nemico a cui viene data la possibilità di perseguire, di essere persecutorio verso un'altra persona, la sua vittima, il suo oppositore. And so, even on a verbal level, during a debate, one can observe this already. anche a livello verbale, durante una discussione, questo può essere osservato. And sadhana, so, let's say, you know, the other point, the other side has sadhana just scored a point, and then one will not give in, you know, with this, but will try to, you know, make a counter point. Allora, immaginiamo due parti in lotta. Allora, una parte, come dire, guadagna un punto e la parte opposta non si arrende, non si ferma lì, ma cercherà di fare una contromossa. No, no, of course during the meditation, you know, retreat, many of these things don't really don't get acted out, they're happening more on a mental level. Ovviamente durante un ritiro di meditazione queste cose non vengono agite, ma accadono più a un livello mentale. And however one might still mentally want to persecute another person. Tuttavia uno mentalmente potrebbe voler essere persecutorio verso un'altra persona. So, perseguitare un'altra persona. While you're sitting in meditation, you might remember something that happened 15 years ago, something that very much hurt you, and now your mind is coming up with creative ways of getting even with this person. Allora, magari siete seduti in meditazione, vi viene il ricordo di una cosa accaduta 15 anni fa, quando siete stati feriti da un'altra persona. Allora, la mente crea dei pensieri di rivalsa verso la persona che vi ha fatto il torto. In general, and then for as for the proximate cause of the arising of ill will, is given a cause of annoyance. La causa prossima per il sorgere della malevolenza e viene data come un fastidio, un senso di fastidio. And this can be anything. E questo potrebbe essere qualunque cosa. And in the text is mentioned that 100% of all suffering, and we can, by extension we could say 100% of all conflicts, are rooted in greed, hatred and delusion. E i testi dicono che l'origine di tutti i conflitti sono radicati in queste tre radici, cioè l'avidità, la rabbia e l'illusione. Conflicts that arise within it in a country, of course, could be because of poverty, because of poor governance, and so on and so forth. Quindi i conflitti che nascono in un paese possono essere per via del della povertà o is it poverty or poor governance. Oppure contro un il malgoverno, diciamo. Yes. And among meditators, conflicts might arise because of certain expectations. E tra meditatori, tra meditanti, questi conflitti possono nascere come conseguenza di aspettative. And let's say one is trying very hard to observe one's rising and falling, one's trying to strengthen one's concentration, and one's neighbor is breathing loudly. Allora uno cerca di osservare attentamente l'alzarsi e l'abbassarsi dell'addome o di sviluppare una forte concentrazione e il proprio vicino sta respirando molto rumorosamente. And then the thought might cross the mind, why this, what, this fellow meditator of mine, why is he breathing so loudly? He should better not breathe at all. Allora uno pensa, ma perché il mio vicino, il mio compagno di meditazione sta respirando così rumorosamente? Sarebbe meglio se non respirasse affatto. Or another case, let's say you're having a hard time working with pains and aches, and then you notice your fellow, your neighbor is very restless, and the thought suddenly crosses your mind, why is this person not considerate? Why is he not understanding that I'm having a hard time and I need a calm and peaceful neighbor? Allora, oppure in un'altra situazione uno sta osservando i dolori e i fastidi nel proprio corpo e il vicino invece è molto agitato. Allora potrebbe venire il pensiero: ma perché questo vicino non capisce che io sto attraversando un momento molto difficile e non è un pochino più un pochino più altruista, insomma. Right. So what we have here with in the last case is not just an expectation, but also this attitude of read my mind, please. E quindi non abbiamo solo un atteggiamento, non è solo un'aspettativa, ma anche un atteggiamento del tipo: per favore, leggi nella mia mente. And act, please. E agisci di conseguenza, per favore. And if the other person is not acting accordingly, then it's his fault. E se l'altra persona non agisce di conseguenza, è colpa sua. Didn't you know that I need so and so? Ma tu non lo sapevi che io ho bisogno di starmene bello tranquillo e via dicendo. So, anyways, as mentioned already in the previous Satna Dhamma talk quite some time ago, the Digha Nikaya mentions various 9 causes for malice. Allora, il Digha Nikaya elenca 9 cause che portano alla malizia, però la malizia in italiano è... è più malevolenza. So things like he has done me an injury, he is doing me an injury, and he will be doing me an injury. Allora, per esempio, lui mi ha ferito, lui mi sta ferendo e lui mi ferirà. And then this word is the same 3, but the injury is being done to someone who is close to oneself. Poi gli altri 3 sono simili, ma questa volta uno sta facendo del male, diciamo così, a una persona vicina. A person near. Yes, right. Near, a person who is close to. Ah, close to, sì, una persona vicina, sì, una persona. And, and then another set of 3, that one is in, what was it, when injury is done or that one gives preference or a favor to someone of another's disliking. One is doing a favor to a person that yes, okay. So I don't opponent. Like Johnny and you do him a favor. Like that. As an example. Yes. Okay, quindi il terzo caso è un altro gruppo di 3 e per esempio una persona fa un favore ad un altro e questa persona praticamente ti sta antipatica, non ti piace. È now, chiaro? No. When it comes. Più faccio ancora. Let's use it with an example. Oh, no, we're not going there. Please don't go for this. No, so the Buddha says, he has done, is doing, will do a favor to someone who's hateful and unpleasant to me. Ah, ok. Allora, Buddha dice, lui ha fatto, sta facendo e farà qualcosa di buono, di positivo, Sì, sta facendo un favore a una persona che io non sopporto, che per me è odiosa. Okay. Così è più chiaro. Ok, so, now we've got it. Okay. And so, when it comes to ill will, then the Venerable Mahasi Sanyasi of Burma says, that ill will oftentimes arises owing to the ear door, namely one hears something that is not pleasing to one's own mind, to one's ears and to the mind, and with this anger arises. Allora, Mahasi Sayadaw della Birmania dice che la malevolenza sorge attraverso la porta dell'orecchio, cioè una persona sente una cosa che non piace all'orecchio o alla mente e quindi reagisce con malevolenza. Now, the Satipatthana Sutta, especially the section on Citta Upasana, has a prescription for this. Allora, il Satipatthana Sutta, e in particolare la sezione sul Citta Nupassana, ha una ricetta per questo, namely, a questo riguardo. Namely, simply when one is being verbally insulted or verbally abused, then to remember to be mindful and just to label as hearing. Allora, quando uno viene attaccato verbalmente o maltrattato verbalmente, allora uno dovrebbe semplicemente esserne consapevole e etichettare come sentire, udire. Or you could simply label as empty sound. O si potrebbe etichettare semplicemente come suono vuoto. And so, and then if you maintain your mindfulness while you're being verbally assaulted, if you maintain your mindfulness for a longer period of time, then sooner or later the other person might suddenly tire of abusing you. Allora, se uno mantiene questa consapevolezza per un tempo sufficientemente lungo, mentre una persona sta attaccando verbalmente, prima o poi è facile che questa persona si stanchi. And so the same section on Citta Nupassana recommends that we observe difficult mental states like ill will with a detached and non-reactive mind. E sempre Citta Nupassana, cioè Satipatthana nella sezione di Citta Nupassana, consiglia di osservare il sorgere di questa malevolenza con una mente distaccata e non reattiva. And so in other places the Buddha recommends to maintain calm in the face of anger. E in altri punti il Buddha consiglia di mantenersi calmi di fronte alla rabbia. And so, this advice is very good. E questo è un buon consiglio, un consiglio molto buono. Now, apart from applying mindfulness whenever ill will has arisen, we could also resort to other means. Other means of dealing with. Sì. Oltre che applicare la consapevolezza quando sorge la malevolenza, noi possiamo anche ricorrere ad altri mezzi. And one such other means would be to consider the effect of getting angry. E uno di questi mezzi è considerare l'effetto che ha il diventare arrabbiati, l'arrabbiarsi. And the illustration given for anger, express letting anger arise in one's own stream of consciousness and expressing it, is towards another person. Well, one is like a person who is standing on a ship, and then let's say somewhere near the bow of the ship, and then throwing away some waste water into the wind direction. Okay. Allora, un altro esempio che viene dato per una persona che esprime rabbia contro un'altra persona è quello di una persona che è in piedi sulla poppa, si dice, o prua, sulla prua di una barca o di una nave, e butta via l'acqua sporca dello scarico contro il vento, praticamente. And so what happens to the waste water? Cosa succede a quest'acqua sporca? Yes, there you go, it will fall onto your own head. Quindi torna indietro, appunto, e ti torna addosso sulla testa. Now, The Buddha has been given yet another illustration, and he says it's like picking up some hot coals, hot burning coals, and wanting to throw them at one's opponent. And so who will burn first? Quindi il Buddha fa un altro esempio, è come quello di una persona che raccoglie dei carboni ardenti per gettarli addosso al nemico. Chi è che si brucia per primo? So, the person in whom the ill will arises will suffer first, even before one can inflict some injury or pain on the other person. Quindi la persona in cui sorge la malevolenza sarà la prima a soffrire di questa malevolenza, prima ancora di poter infliggere un danno agli altri. And so having understood the nature, or somewhat understood the nature of ill will, it's doesn't make much sense to let it arise in the stream of consciousness and even to act on it. Quindi quando si capisce la conseguenza che ha, le conseguenze che ha il sorgere della malevolenza, allora uno farà in modo che non sorga, o comunque se sorge non agirà sulla malevolenza che è sorta. And so, the Buddha clearly states in the Anguttara Nikaya, with regard to all of the three unwholesome roots, that they can be overcome. Allora, nell'Anguttara Nikaya, il Buddha chiaramente dichiara che, dice, che queste tre, qualunque cosa che sorga da queste tre radici, quindi l'avidità, la rabbia e l'illusione, può essere superato. And so, if not, the Buddha wouldn't have declared this. Se non fosse così, il Buddha non avrebbe dichiarato in questo modo. Now, other ways of curbing the ill will consist of strictly keeping the precepts, applying them. Quindi un altro modo per tenere a bada questa malevolenza è il rispettare i cinque precetti, yes, rigidamente, insomma, accuratamente. And so even if some ill will has arisen and there's a desire to inflict harm on another person, yet one remembers the precepts and one will make sure that one is not going to act it out physically, nor neither physically nor verbally. E quindi anche quando sorge un pensiero di malevolenza e il desiderio di fare del male a un'altra persona, uno, ricordandosi i cinque precetti, eviterà di agire su questa malevolenza sia fisicamente che verbalmente. And in this way, harm is not being brought to another person, and the ill will manifests only, or there's only the manifestation of ill will in one's own mind. E in questo caso quindi non sarà fatto del male a un'altra persona, ci sarà solo la manifestazione della malevolenza nella propria mente. And then as another way of dealing with it, we could meditate, and then maybe practice one or the other form of samatha, and thus concentration arises, and in the presence of strong concentration, well, ill will won't or will be suppressed. Oppure possiamo meditare e scegliere qualche forma di meditazione di samatha. Così facendo si svilupperà una forte concentrazione, in presenza di una forte concentrazione la malevolenza sarà repressa, messa da parte. And as a form of samatha practice, we have the meditation or the contemplation of loving kindness. E come una delle forme della meditazione di samatha è quella della contemplazione sulla gentilezza amorevole. And this contemplation of loving kindness, metta bhavana, is the antidote to the ill will. E questa metta bhavana, cioè la contemplazione della gentilezza amorevole, è un antidoto alla malevolenza. And when that loving kindness is present in the in this or arises in the stream of consciousness, then it will gradually drive the ill will away. Quando sorge questa gentilezza amorevole nel flusso della coscienza, gradualmente spingerà fuori la malevolenza. Now, apart from these different ways, there's yet another one that is also quite effective, namely simply to practice restraint of the senses. Un altro modo, oltre a questi, che è molto efficace è semplicemente di controllare i sensi. So, like in a meditation center, if you find that the same meditator is talking over and over again, even though you have advised him already several times, and next time, and suddenly you're getting somewhat irritated about it, and next time you see the person talking, you just don't look there. Allora, per esempio, un centro di meditazione, se c'è una persona che continua a parlarvi nonostante voi ripetutamente gli abbiate chiesto di non farlo, allora e vedete che sorge in voi un certo fastidio, un'irritazione, la prossima volta che incontrate questa persona semplicemente non la guardate. And so, also from a point of view of conflict resolution, seeing one's own contribution to a conflict, this is also very important. Un'altra cosa importante, soprattutto per quanto riguarda la risoluzione dei conflitti, è vedere la propria il proprio contributo nella creazione di quel conflitto. And this requires that one is honest with oneself. E questo richiede una certa onestà con se stessi. And it also requires a willingness to make the necessary changes. E richiede anche la disponibilità di fare tutti i cambiamenti necessari. But this is actually quite an opening, especially when let's say the other side is not willing to change. At least one can change one's own mind and one's own behavior. E questo è veramente un'apertura, soprattutto quando l'altra persona non ha intenzione di cambiare. E questo permette invece di cambiare la propria mente e il proprio comportamento. Now, when it comes to a conflict, then there's a certain typical development. Allora, quando sorge un conflitto, c'è un tipico sviluppo di questo conflitto. And conflict usually starts with some or over some contentious issue. Quindi di solito un conflitto nasce su un contenzioso. And so two people or two groups of people have different ideas. They disagree. Quindi due persone o due gruppi di persone hanno un'idea diversa, non sono d'accordo. And unfortunately, usually it doesn't stop there. E sfortunatamente di solito non finisce lì. But instead, the conflict starts getting nasty, and so then instead of focusing on the issue itself, the whole it becomes personal. So one starts pointing out the personal faults of the other person. Allora, quello che succede è che anziché poi rimanere circoscritto al problema, alla questione, diventa invece un conflitto a livello personale. There's fault finding with the character traits of another person. Sì, diventa personale nel senso che uno cerca i tratti più negativi o i difetti nell'altra persona. And so, rather than addressing the issue, one then focuses on the shortcomings of the other person. Quindi, anziché affrontare il problema in sé, uno affronta invece o va a guardare i difetti dell'altra persona, the shortcomings, yes. I difetti o le mancanze dell'altra persona. And once a conflict has started, I mean, very soon will it expand? And this oftentimes in terms of time. Una volta che è cominciato questo conflitto, poi si espanderà, si estenderà, soprattutto nel tempo, in termini di tempo. Yeah. So we have this present conflict. However, we remember something that happened maybe 15 years ago. Back then you said so and so, or back then you did this or that to me. Quindi il conflitto avviene nel presente, però uno ricorda degli avvenimenti passati, magari di 15 anni fa. Mi dice, ah, tu 15 anni fa hai detto la tal cosa, o hai fatto la tal altra. Yeah. And then one throws this into the debate. E uno poi butta all'interno di questa arena, di questo dibattito, anche queste cose. And so, yeah, then as the communication isn't that good anymore, well, parties form. One looks for others who share one's own point of view. So parties form, or as communication is kind of breaking down. Siccome poi la comunicazione non funziona tanto bene, allora ciascun contendente si crea un partito, cioè cerca degli alleati, qualcuno che possa sostenere la sua posizione, la pensi come lui. And then direct communication stops, backbiting starts. Allora poi si interrompe la comunicazione diretta e cominciano le ripicche. And then we don't talk directly to each other anymore, but about each other. Allora poi non si parla direttamente all'altra persona, ma si parla dell'altra persona. And then some generalizations might come into play. E poi possono entrare in gioco delle generalizzazioni. And saying such and such a person, or you are part of such and such a nation in that entire nation, or people of that country are all like this. Allora, per esempio, tu sei fatto in un certo modo, allora vuol dire che tutti quelli del tuo paese sono fatti in quel modo lì. And tutta la nazione. And then it leads to polarization. Namely, it's either you or me. E poi si polarizzano, si estremizzano, si arriva a una polarizzazione delle posizioni. Quindi o tu o io. And so, then at the very end, it comes to a separation, oftentimes in physical terms. E poi si giunge a una separazione, spesso una separazione in termini fisici. Now, this is the typical stages in a conflict. Queste sono le tipiche fasi di un conflitto. And so, the Buddha says in the context of a conflict, whether it be at home or in the community or between nations, that it is never, hatred is never appeased by hatred. It is appeased only by loving kindness. Il Buddha diceva che per quanto riguarda i conflitti, che siano conflitti tra due persone o tra due comunità o tra due nazioni, che l'odio non è mai placato con l'odio, ma è placato solo con la gentilezza amorevole. And so this loving kindness is not about bringing harm to others, but its characteristic is that of wishing for the welfare and happiness of others. Quindi questa amorevolezza è il non voler creare, non voler far del male all'altra persona, piuttosto augurare che l'altra persona stia bene. And with regard to others, one prefers their welfare over their misfortune. Per quanto riguarda gli altri, uno augura il benessere degli altri piuttosto che il loro malessere. And its manifestation is as the removal of ill will. La manifestazione è la rimozione della malevolenza. So, once loving kindness is there, the ill will goes. Una volta che è presente la benevolenza, la malevolenza se ne va. And the proximate cause for the arising of loving kindness, and this is really important, is seeing the ability to possess the ability to see love spots or positive aspects in others. E la causa prossima della benevolenza, e questo è molto importante, è la capacità di vedere i lati positivi, i lati amabili dell'altra persona. And to see strong points, positive points, even in your enemy. E vedere questi punti di forza, questi punti positivi, aspetti positivi, anche nel proprio nemico. Now, of course, this is not easy to do. Ovviamente questo non è facile da fare. No, but it can be done. Ma può essere fatto. Now, the object of our loving kindness is are all living beings. L'oggetto della nostra gentilezza amorevole sono tutti gli esseri viventi. And this includes all other human beings. Questo comprende tutti gli altri esseri umani. And included in this are our our direct enemies and people for whom we have less regard. E questo comprende i nostri nemici diretti e le persone verso le quali abbiamo un minor rispetto. But this loving kindness also covers non-human beings or other creatures. Ma questa gentilezza amorevole copre anche e altre creature, anche non esseri umani. So, your birds, your animals, and so on. Quindi gli uccelli, gli animali e così via. And so, when it comes to human relations, especially in our modern society, as so things tend to get tougher and tougher in some places, it is important not to forget this loving kindness. E nelle nostre relazioni umane e in questo mondo dove le cose diventano sempre più difficili, è bene non dimenticarsi questa gentilezza amorevole. Where there is no loving kindness in the relationship between human beings, well, there's a lot of friction owing to the ill will. Dove non c'è gentilezza amorevole nelle relazioni tra le persone, ci sarà molta frizione, si dice, molta irritazione tra le persone, perché c'è la malevolenza. And when there is ill will and friction, then there's for sure no peace and no happiness. Quando c'è questa frizione, questa malevolenza, allora non ci può essere la pace, non ci può essere la felicità. And when there is loving kindness within oneself and also in the relationship with others, then this contributes to peace and happiness. Quando c'è benevolenza dentro se stessi e anche verso l'altra persona, allora questo contribuisce alla pace e alla felicità. And there's a Chinese saying that very nicely summarizes this aspect. C'è un detto cinese che riassume molto bene questo aspetto. Namely, when there is peace within oneself, there's harmony in the family. Quando c'è pace dentro di sé, c'è armonia nella famiglia. When there's harmony in the family, there is cooperation in the community. Quando c'è armonia nella famiglia, c'è collaborazione nella comunità. When there's cooperation in the community, there's order in the country. Quando c'è collaborazione nella comunità, c'è ordine nella nazione. When there's order in one nation, there's peace in the world. Quando c'è ordine in una nazione, c'è la pace nel mondo. Okay. And with this I would like to conclude our talk. E con questo vorrei concludere il mio discorso.